Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Il vecchio palazzo abbandonato, con gli alti soffitti stuccati e gli affreschi sui muri, i pavimenti a mosaico, le pesanti tende di damasco giallo alle alte finestre, i vasi sulle mensole e sui caminetti, le porte intagliate e con cupe sale piene di quadri, questo palazzo, dopo che loro vi si trasferirono, con il suo stesso aspetto alimentò in Vronsky la piacevole ed erronea sensazione di non essere tanto un proprietario terriero russo, un Egermeister senza impiego, quanto un illuminato amatore e protettore delle arti, e lui stesso un artista, sebbene modesto, un uomo che aveva rinunciato al mondo, alle relazioni, all'ambizione per la donna amata. La parte che si era scelta Vronsky, traslocando nel palazzo, riuscì perfettamente. E avendo conosciuto attraverso Golenischev alcune persone interessanti, nei primi tempi egli fu tranquillo. Sotto la guida di un professore italiano di pittura, dipingeva studi dal vero e si occupava della vita medievale italiana. La vita italiana del Medioevo negli ultimi tempi aveva talmente affascinato Vronsky che egli si mise a portare alla maniera medievale persino il cappello e il plaid sulla spalla, cosa che gli donava molto. «E noi viviamo e non sappiamo nulla», disse una volta Vronsky a Golenischev, che era venuto a lui di mattina. «Hai visto il quadro di Mikhailov?» disse porgendogli un giornale russo appena ricevuto e indicandogli un articolo sull'artista russo che viveva in quella stessa città e aveva terminato un quadro sul quale da tempo correvano voci e che era stato già acquistato in anticipo. Nell'articolo c'erano rimproveri al governo e all'accademia per il fatto che un insigne artista era stato privato di ogni incoraggiamento e aiuto. «L'ho visto», rispose Golenischev. «Si capisce, lui non manca di talento, ma è una tendenza completamente falsa. È sempre la stessa maniera di trattare Cristo e la pittura religiosa alla Ivanov Strauss Renan». «Che cosa rappresenta il quadro?» domandò Anna. «Cristo dinanzi al Pilato. Cristo è rappresentato come un ebreo, con tutto il realismo della nuova scuola». «Ma dite, è vero che questo Mikhailov è così in miseria?» domandò Vronsky, pensando che, in quanto mecenate russo, lui avrebbe dovuto aiutare l'artista, buono o cattivo che fosse il suo quadro. «È difficile, è un notevole ritrattista. Avete visto il ritratto della Vasilchikova? Ma sembra che non voglia più dipingere ritratti, e perciò può darsi che appunto sia nel bisogno. Io dico che non lo si potrebbe pregare di fare il ritratto di Anna Arkadievna», disse Vronsky. «Perché il mio?» disse Anna. «Dopo il tuo non voglio nessun altro ritratto. Piuttosto ad Annie», così chiamava la sua bambina. «Eccola qui», soggiunse dopo aver dato un'occhiata attraverso la finestra alla bella balia italiana che portava la bambina in giardino, e subito, senza farsi notare, volgendosi a guardare Vronsky. La bella balia che Vronsky utilizzava come modella nel dipingere una testa per un suo quadro era l'unico dolore segreto nella vita di Anna. Vronsky, dipingendola, ne ammirava la bellezza e il tipo medievale, e Anna non osava confessare a se stessa che aveva paura di essere gelosa di quella balia e perciò blandiva e viziava sia lei sia il suo bambino piccolo. Thank you. L'artista Mikhailov, come sempre del resto, era al lavoro quando gli portarono i biglietti da visita del conte Vronsky e di Golenischev. Sul suo quadro, quello che adesso stava sul cavalletto, nel profondo dell'anima aveva un solo giudizio: che un quadro simile non l'aveva mai dipinto nessuno. Non pensava che il suo quadro fosse migliore di tutti quelli di Raffaello, ma sapeva che quello che aveva voluto esprimere e aveva espresso in questo quadro, nessuno l'aveva mai espresso. Sapeva questo con certezza, e lo sapeva già da tempo, da quando aveva cominciato a dipingerlo. Ma i giudizi della gente, qualsiasi fossero, avevano non di meno per lui un'immensa importanza e lo agitavano sino in fondo all'anima. Ai propri giudici attribuiva sempre una profondità di comprensione maggiore di quella che aveva lui stesso e da loro si aspettava sempre qualcosa che lui stesso non vedeva nel proprio quadro. E sovente, nei giudizi degli osservatori, gli sembrava di trovare questo qualcosa. Si avvicinò con passo svelto alla porta del suo studio e, malgrado la sua agitazione, lo colpì la luce dolce che circondava Anna, che era in piedi nell'ombra del portone e ascoltava Golenischev che le diceva qualcosa con calore, ma nello stesso tempo desiderava evidentemente osservare l'artista che si avvicinava. Non si accorse neppure come egli avesse afferrato e inghiottito questa impressione mentre si avvicinava a loro e l'avesse nascosta chissà dove, in un posto da dove l'avrebbe tirata fuori quando gli fosse servita. I visitatori, già delusi in anticipo da quel che aveva raccontato sull'artista Golenischev, furono ancora più delusi dal suo aspetto. Di media statura, tarchiato, con un'andatura saltellante, Mikhailov produsse un'impressione sgradevole con il suo cappello marrone, il paltò olivastro e i pantaloni stretti, mentre già da un pezzo si portavano larghi. E specialmente per la banalità della sua faccia larga, per la sua espressione in cui si mescolavano timidezza e desiderio di mantenere la propria dignità. «Prego, accomodatevi», egli disse cercando d'avere un'aria indifferente, e entrando nel vestibolo tirò fuori di tasca una chiave e aprì la porta. Entrando nello studio, l'artista Mikhailov osservò ancora una volta gli ospiti e annotò mentalmente anche l'immagine della faccia di Vronsky, specialmente dei suoi zigomi. Benché il suo senso artistico lavorasse senza interruzione, raccogliendo materiale, benché egli sentisse un'agitazione sempre maggiore per il fatto che si avvicinava il momento dei giudizi sul suo lavoro, da segni impercettibili si andava formando con rapidità e finezza un'idea di quelle tre persone. Quello, Golenischev, era un russo del posto. Mikhailov non ne ricordava il cognome, né dove l'avesse incontrato e che cosa avesse detto con lui. Ricordava solamente la sua faccia, come ricordava tutte le facce che aveva visto, ma ricordava anche che era una delle facce messe da parte nella sua immaginazione nell'enorme reparto delle facce falsamente significative e povere d'espressione. Vronsky e la Karenina, secondo le considerazioni di Mikhailov, dovevano essere russi di gran famiglia e ricchi, che non capivano niente d'arte, come del resto tutti i ricchi russi, ma che si fingevano amatori e intenditori. From a whisper in the wind, whisper to a loud scream. The message came that I've lost you, to the warmth of another man. For heaven's sake, girl, don't do this to me. To in all the showers of April. I took kindness for granted, as if it came with the wallpaper. So inconsiderate of how much you care for some stupid reason. I just thought you had to be there. But oh my love, you've lost it. Oh my love, she's gone. My love, you've lost it. She's long gone. For heaven's sakes, girl, don't do this to me. I simply must have been crazy. I must have been out of my mind to overlook the needs in you. How could I have been so blind? Never giving thanks to your wants and needs. But now I'm a begging for baby, please, please, please. But oh my love, oh my love, she's gone. My love, you've lost it. So inconsiderate of how much you care for some stupid reason. I just thought you had to be there. But oh my love, you've lost it. Oh my love, she's gone. My love, you've Mikhailov conosceva assai bene la mania dei dilettanti, quanto più intelligenti tanto peggio, di visitare gli studi degli artisti contemporanei solo per poter dire che l'arte è decaduta e che più si guardano i moderni più ci si rende conto di quanto siano inimitabili i grandi maestri antichi. Tutto questo se l'aspettava, tutto questo lo vedeva nelle loro facce, lo vedeva nell'indifferente negligenza con cui essi parlavano fra loro, guardavano i fantocci e i busti e passeggiavano liberamente, aspettando che lui scoprisse il quadro. Nonostante questo, però, mentre voltava i suoi studi, sollevava le tendine e toglieva il lenzuolo, sentiva una forte agitazione, tanto più che, sebbene tutti i russi ricchi e di gran famiglia nel suo concetto dovessero essere bestie e idioti, Vronsky e più ancora Anna gli piacevano. «Ecco, volete favorire?» disse facendosi da parte con il suo passo saltellante e indicando il quadro. «È l'esortazione di Pilato. Matteo, capitolo 27», disse sentendo che le sue labbra cominciavano a tremare per l'agitazione. Si allontanò e si mise dietro di loro. «Com'è sorprendente l'espressione di Cristo», disse Anna. Di tutto quel che aveva visto, quell'espressione le era piaciuta più di tutto, e lei sentiva che quello era il centro del quadro e che perciò una lode di questo avrebbe fatto piacere all'artista. «Si vede che ha compassione di Pilato». Era di nuovo una di quel milione di giuste considerazioni che si potevano trovare nel suo quadro e nella figura di Cristo. Lei aveva detto che Pilato gli faceva pena. Nell'espressione di Cristo doveva esserci anche un'espressione di compassione. Egli doveva esprimere l'amore, la calma ultraterrena, la disposizione alla morte, la consapevolezza della vanità delle parole. Si capisce, c'era un'espressione da funzionario in Pilato e di compassione in Cristo, giacché l'uno era la personificazione della carne e l'altro della vita spirituale. Tutto questo e molte altre cose balenarono nel pensiero di Mikhailov e di nuovo la sua faccia si illuminò d'entusiasmo. «Sì, e com'è fatta questa figura? Quanta aria! Si può girarle intorno», disse Golenischev, palesemente mostrando con questa osservazione che non approvava il contenuto e il pensiero della figura. Sì, una maestria sorprendente, disse Vronsky. Come risaltano queste figure sullo sfondo? Ecco la tecnica, disse rivolgendosi a Golenischev e con questo alludendo ad una conversazione intercorsa fra loro sul fatto che Vronsky disperava di acquisire una simile tecnica. Ah sì, sì, sorprendente, confermarono Golenischev e Anna. Nonostante l'eccitazione in cui si trovava, l'osservazione sulla tecnica aveva dolorosamente ulcerato il cuore di Mikhailov ed egli, gettato uno sguardo iroso a Vronsky, improvvisamente si accigliò. Sapeva che con quella parola intendevano la capacità meccanica di dipingere e di disegnare, del tutto indipendente dal contenuto. Spesso aveva notato come anche in una vera lode contrapponevano la tecnica al valore intimo dell'opera, come se si potesse dipingere bene quel che era cattivo. Sapeva che occorre molta cautela per togliere i veli, le apparenze che nascondono la realtà vera dell'oggetto senza nuocere all'opera, ma secondo lui ciò non rientrava nel dominio della tecnica e il più esperto e abile pittore tecnico non avrebbe potuto dipingere nulla con la sola capacità meccanica se prima non gli si fosse rivelato il contenuto nella sua nettezza. Vronsky, Anna e Golenischev, ritornando a casa, erano particolarmente animati e allegri. Parlavano di Mikhailov e dei suoi quadri. La parola talento, sotto cui intendevano una facoltà innata, quasi fisica, indipendente dalla mente e dal cuore, e con cui volevano designare tutto ciò che era proprio dell'artista, ricorreva spessissimo nella loro conversazione, giacché serviva loro per designare qualcosa di cui non avevano la minima nozione, ma di cui volevano parlare. Dicevano che non si poteva negare che il nostro artista avesse del talento, ma che il suo talento non poteva svilupparsi per difetto di istruzione. Sventura comune ai nostri artisti russi. Mikhailov vendette a Vronsky il quadro e acconsentì a fare il ritratto di Anna. Il giorno fissato venne e cominciò il lavoro. Dopo la quinta seduta il ritratto colpì tutti, e in particolar modo Vronsky, non soltanto per la somiglianza, ma anche per una particolare bellezza. Era strano come Mikhailov avesse potuto cogliere la particolare bellezza di Anna. Bisognava conoscerla e amarla come l'ho amata io, per trovare quella sua espressione spirituale così cara, pensava Vronsky, benché solamente da questo ritratto egli avesse cominciato a conoscere quella cara espressione spirituale di lei. Quell'espressione però era così veritiera che a lui e agli altri sembrava di conoscerla da molto tempo. «Io mi batto da tanto tempo e non ho combinato nulla», diceva del proprio ritratto, «e lui ha guardato e dipinto. Ecco che cosa vuol dire la tecnica». Con il suo atteggiamento riservato e spiacevole, quasi ostile, Mikhailov in genere non piacque affatto quando lo conobbero più da vicino, e furono contenti quando le sedute finirono, rimase nelle loro mani un magnifico ritratto ed egli smise di venire. Golenischev per primo espresse il pensiero di tutti, e precisamente che Mikhailov era semplicemente invidioso di Vronsky. «Ammettiamo che non sia invidioso perché ha talento, ma lo irrita che un uomo di corte e ricco, per di più conte, perché loro odiano tutto ciò, faccia senza particolare fatica lo stesso, se non meglio di lui, che a questo ha dedicato tutta la sua vita. L'essenziale è l'istruzione che a lui manca». Vronsky difendeva Mikhailov, ma in fondo all'anima credeva a questo, perché secondo il suo concetto un uomo di un altro mondo, inferiore, doveva essere invidioso. Il ritratto di Anna, la stessa cosa dipinta dal vero da lui e da Mikhailov, avrebbe dovuto mostrare a Vronsky la differenza, ma egli non la vedeva. Dopo Mikhailov smise soltanto di dipingere il ritratto di Anna, avendo deciso che ormai era superfluo. Continuava invece il quadro di vita medievale. Sia lui, sia Golenischev, sia in modo particolare Anna, trovavano che era molto bello perché era molto più simile ai quadri celebri che non il quadro di Mikhailov. Mikhailov, intanto, benché il ritratto di Anna l'avesse molto attratto, fu ancor più contento di loro quando le sedute terminarono e non fu più costretto ad ascoltare le chiacchiere di Golenischev sull'arte e poté dimenticare la pittura di Vronsky. Sapeva che non si poteva proibire a Vronsky di divertirsi con la pittura. Sapeva che lui e tutti i dilettanti avevano pieno diritto di dipingere quel che gli pareva, eppure la cosa gli seccava. Non si può proibire a un uomo di farsi una grande bambola di cera e di baciarla. Ma se quest'uomo con la bambola venisse a sedersi davanti ad un innamorato e si mettesse a carezzare la sua bambola come l'innamorato carezza quella che ama, la cosa sarebbe sgradevole per l'innamorato. La stessa sgradevole sensazione aveva provato Mikhailov alla vista della pittura di Vronsky. La cosa era per lui ridicola e indisponente, penosa e offensiva. La passione di Vronsky per la pittura e per il Medioevo non durò a lungo. Aveva abbastanza gusto per la pittura e questo non gli permise di finire il quadro. Il quadro si fermò. Confusamente egli sentiva che i difetti di esso, poco percettibili in principio, sarebbero stati irrilevanti se avesse continuato. Gli era successa la stessa cosa successa a Golenischev, il quale sentiva di non aver nulla da dire e continuamente ingannava se stesso dicendosi che il suo pensiero non era ancora maturo, che lo doveva far maturare e preparare i materiali. Ma questo incattiviva e torturava Golenischev, mentre Vronsky non poteva ingannare e torturare se stesso e soprattutto non poteva incattivirsi. Con la risolutezza di carattere che gli era propria, cessò di occuparsi di pittura senza spiegar nulla e senza giustificarsi. Ma senza quell'occupazione, la vita sua e di Anna, la quale si era stupita della sua disillusione, gli parve così noiosa nella città italiana. Il palazzo si fece a un tratto così palesemente vecchio e sudicio, così sgradevoli parvero le macchie sulle tende, le crepe nei pavimenti, lo stucco spaccato sui cornicioni, e così noioso diventò veder sempre quel medesimo Golenischev, che si dovette cambiar vita. Decisero d'andare in Russia, in campagna. A Pietroburgo Vronsky aveva intenzione di fare la spartizione dei beni con il fratello, Anna di vedere il figlio. Avrebbero trascorso l'estate nella grande tenuta a vita di Vronsky. Elsa Agalbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.